Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati sulle frequenze di Ondivago. Nella puntata precedente abbiamo inaugurato la rubrica Melting Plot. Avremmo potuto continuarla fra un mese, ma Ondivago è impaziente e la conseguenza è che proseguiamo la narrazione radiofonica con un'altra vicenda. Dopo la storia di una ragazza straniera, Daria, giunta in Italia, passiamo ad una ragazza italiana all'estero, Luisa, perché Melting Plot vuole raccontare le mescolanze di popoli, le traslazioni terrestri di cui siamo protagonisti. Luisa Troianis, originaria della Toscana, ha lasciato tutto ed è partita per la Svezia, dove vive da qualche anno. La particolarità e che vive nella Lapponia svedese, con un cane, Ginger, ad una temperatura che d'inverno arriva sotto i 30 gradi. Quindi un luogo difficile, ma anche affascinante, tanto da averle dato l'idea di lavorare come tour operator locale, come guida per coloro che vogliono recarsi in Lapponia. La vicenda di Luisa Troianis è stata negli ultimi mesi oggetto di grande interesse da parte dei media italiani, per vari motivi: di viaggio, di lavoro all'estero, di fuga, di Europa in movimento. Complici sicuramente le splendide foto e i video diffusi da Luisa su internet e una sua costante presenza in rete. Ondivago vuole affrontare questa storia in modo diverso, perché Ondivago ascolta in modo altro e il suono si propaga più velocemente nell'acqua. Ci troviamo sotto il circolo polare artico, ci troviamo a Tandale e adesso ci troviamo in questo mitico lago ghiacciato dove proveremo poi a fare il bagno nel ghiaccio, se sopravviviamo. Se non muoio, ci rivediamo. L'acqua, la temperatura, non so, sarà meno 15, non oso pensare. Quanto potrebbe essere? Oddio, guarda, oddio. Ma ora lasciamo la parola a Luisa Troianis, con cui siamo in collegamento via Skype. Ondivago approda nella Lapponia svedese. Com'è la situazione? Che temperatura fa adesso da te? Ma guarda, oggi è stata una giornata splendida, meno 25, mi sono fatta mezza montagna, ho fatto 3 ore di sci da sola, senza nemmeno Ginger, perché non l'ho preso oggi, tanto per stare tranquilla, se no lui rompe, perché la prima parte, quando tu parti con il cane, se ti fermi, se parli con qualcuno, se fai una foto, incomincia a strillare come un pazzo, perché vuole andare, capito, non ha voglia lui di fermarsi, no? Quindi ero da sola e ho fatto 3 ore di sci, proprio bello, avrò fatto una ventina di chilometri. Va bene. Da qualche anno che tu stai in Lapponia, in Svezia, ma di sì. Quanto tempo di più o meno, di preciso? Ma è guarda, dal 2004. Dal 2004, quindi è già un po', insomma, non è... È già un bel po', cavolo, un bel po', passa il tempo e non te ne rendi conto. Comunque, sì, mi trovo qui dal 2004 per un viaggio, così sono partita per vedere un po' il posto, perché avevo degli amici e poi avevo anche una persona che poi è diventata il mio fidanzato negli anni a venire, diciamo, e lui era andato per primo per lavoro, io l'avevo già conosciuto in Toscana, sono venuta qua su per 2 mesi. Uh-huh. Agli inizi del 2004 e mi ricordo, insomma, in 2 mesi ho fatto tutto: la slitta con i cani, ho fatto lo snowboard, lo sci di fondo, lo sci alpino, ero veramente satura. Alla fine di questi 2 mesi, questo poi persona che nel frattempo era diventato anche fidanzato mi fa, dice: dai, apriamo un'attività insieme, uh-huh, ci stiamo qua. E io ho detto: ma fossi matta, io qui non ci sto. Noi siamo impazziti, dico, guarda, bello quello che ti pare, ma starci in questa solitudine non ce la farei mai. Sai quando sono le ultime parole famose, no? Poi ritorni a casa, vedi la realtà in cui ti trovi, vedi che insomma non c'è spazio per andare avanti, non c'è possibilità, e voglio fare una cosa per conto mio e non sono riuscita a farla perché burocraticamente parlando devi aprire partita IVA, cercavo di prendere degli incentivi dall'imprenditoria femminile, ma ormai avevo passato l'età, insomma tante di quelle cose che ho detto, guarda, lasciamo perdere, perché solo per aprire una piccola cosa ti dovevi mettere su un ufficio, cioè troppe cose veramente. Tu abitavi in Toscana? Sì, Toscana, poi tra l'altro in un posto bellissimo, nel Parco Nazionale della Val d'Orcia, che comprende i comuni di Montepulciano, Pienza e Montichiello, che sono poi la strada del vino, no? Il vino nobile, il Brunello di Montalcina a 50 km, quindi insomma arrivo da una realtà, se vogliamo, ricca culturalmente, ma anche ricca di stimoli, di cibo buono, quindi non è che stavo, non lo so… Sì, in un paesaggio comunque piacevole, eccetera. Molto bello, sì. Cosa facevi di preciso in Toscana? Avevi un'attività già avviata? No, magari. Mi sono laureata, poi ho preso il brevetto di guida ambientale escursionista, perché non avevo possibilità di fare carriera universitaria, sì. Non mi sarebbe piaciuto. E quindi ho lavorato come guida ambientale, organizzavo pacchetti per i turisti, sai, per andare nelle varie cantine del vino, e quindi organizzavo veri e propri tour. Di portarli a passeggio se ne parlava poco, perché come sai, gli italiani di passeggiare gliene frega ben poco, specialmente poi se devono pagare per poter camminare. Non loro dicono di grazia, cammino da solo. Sono un po' pigri gli italiani per queste cose, sì. E quindi ho detto no. E poi lavoravo alla reception di un agriturismo, dove, insomma, molto bello, tra l'altro, in mezzo agli alberi, in collina, sai, sempre posti comunque solitari. Quindi a un certo punto tu hai avuto questo viaggio, questa esperienza, e ti sei ritrovata in un luogo completamente diverso, penso, dalle tue diversissimo. Aspirazioni di viaggio, che può essere le Maldive o l'Australia, non so quale isola. E cosa ti ha indotta a fermarti? Guarda, questa è una bella domanda. Diciamo la situazione che si è creata, o un insieme di fattori, come... Sai, più quando metti su una, quando vuoi metti su una tua attività, all'inizio ti devo dire che ero un po' titubante, perché dico, ma insomma è difficile farla partire tutto quanto. Poi piano piano ti appassioni, perché ogni giorno, guarda, passo dai soliti posti mille volte, e ogni volta che ci passo ho sempre mille spunti per rifarci foto, per farci video, quindi è sempre un continuo rivedere quello che hai già visto, ma con la presunzione forse e con l'ambizione di vedere sempre al di là di quello poi che i locali vedono, perché tu sai che quando stai in un posto che vedi sempre tutto il tempo, perdi un po', no? Il fatto del bello, il fatto di dove ti trovi, non apprezzi più come prima. Quindi credo che uno dei fattori è che è proprio questa capacità che ha la natura qui intorno di rigenerarsi e di offrire sempre spunti nuovi. E quindi anche per me. Anche per te, certo. Sei, diciamo che la tua vicenda, come io ho raccontato un po' all'inizio della puntata, ha avuto una certa risonanza anche in Italia. No, hai ragione. Sì, beh, anche perché è un periodo molto particolare in Italia, dove anche i giornali spingono forte, no, nel dire giovani andate all'estero, cambiate, fughe. Abbiamo iniziato con le fughe dei cervelli, poi da cervelli siamo resi conto che anche la gente normale andava via, quindi è stato tutto un procedere, tutto un susseguirsi di cose. E chiaramente io sono un fatto atipico, sì. Nel senso comunque che uno magari senti di persone che vanno alle Maldive, Bora Bora, vanno a aprire il chiosco, il famoso chioschetto che tutti sognano, in riva al mare, vendi cocktail, le belle fanciulle, ecco quello che uno ama, no, solitamente. Quindi poi, specialmente in questo caso, una donna toscana chi se ne va in un posto così freddo, in un posto poi remoto, perché io non è che ti sto parlando, dice vabbè dai, tutti sono capaci, tra virgolette, è andata a Stoccolma, è andata a Gothenburg, è andata a Helsinki, che sono comunque città molto grandi, dove è sempre difficile l'impatto, ma insomma non è dove, come, dove sono io. Io sto in un posto che è a 350 chilometri, c'è la città più grande che si chiama Östersund, e poi sono al confine con la Norvegia, in un posto dove, come sappiamo, il 90% della Svezia è caratterizzato da foreste e laghi, e dove sono io c'è solo quello. Quindi sì, cioè, è un piccolo paese. Io, dove sto io, la frazione Tandale, ne sono 20 abitanti. Io sono la ventunesima. Si scrivevi sul tuo, sui tuoi post, perché Luisa Troianis è molto presente sulla rete anche. Molto presente, molto. Su Facebook sempre, perché è il mio, diciamo, la mia connessione con il mondo del reale, perché altrimenti qui, sai, come dire, anche nelle belle cose si ha bisogno di respiro poi, no? Perché anche il bello stanca, cioè voglio dire, ti porta in una dimensione che ti ci vuole qualche connessione con la realtà, perché... Perché insomma è talmente, qui la realtà è talmente semplice, talmente di base, dove veramente non c'è da fare code per prendere assolutamente niente, non c'è da scadenze, il tempo è dilatato. Sì. Io poi con il lavoro che faccio, il tempo è quello che è, non ha importanza se è lunedì, se può essere domenica. Sì. Capito? Riprendendo il tuo post, scrivevi che avevi desiderio di andare a mangiare una pizza, e ricordo il post e dicevi, ma effettivamente a Tandale non ci sono pochi abitanti, uno è di qui, l'altro è di là, con chi la mangio la pizza, quindi insomma. No, infatti, no, è così, ma guarda, veramente drammatico, c'è delle sere che, visto, no, come uno normale, dice vabbè, vai, non ho voglia di stare in casa, mi vado a mangiare una pizza, allora io ho chiamato tutte le risorse disponibili intorno. Ho chiamato l'ex fidanzato, gli ho detto che fa, sono impegnato, giustamente, non è che può stare... Giustamente, c'avevo anche un altro ragazzo che è qui vicino a casa mia, dice no, devo andare via, e vabbè, gli altri sono a letto, alla fine ho detto senti, vado io, che me ne frega, ho preso la macchina, era meno 18, figurati, sono andata nel paese di Funesdalen, che sono, il paese è formato da due supermercati, due negozi di souvenir che sono chiusi, badate bene, non sono sempre aperti, solamente nei periodi d'alta stagione. State ascoltando Ondivago. Ai nostri microfoni Luisa Troianis dalla Svezia. ondivago.blogspot.com. Tu in questo amenissimo loco fai tante cose in realtà. Però fai soprattutto un'attività di tour operator, giusto? Di guida turistica? Che tipo di attività? Sì, no, dunque, guida turistica no, perché non, guida turistica mi fa pensare sempre che tu lavori per un ente o per qualcun altro, e quindi è una cosa, diciamo, più personale, che sì, un tour operator, che anche questa è una mera definizione, perché si usa così, nel senso che, come tu sai, in Italia per essere tour operator devi anche obbedire a certe regole, devi stare all'interno di un sistema. E io sono in questo un po' indipendente, perché la mia attività è svedese e non è italiana. Io infatti l'ho registrata in Svezia. Possiamo dire come si chiama, tra l'altro. Si chiama Red Fox Adventure, e il sito è www.redfoxadventure.com, senza la S finale, perché molti pensano Adventures e ci infilano la S in fondo. Tanto comunque metteremo il link sulla pagina del sito, così lo potranno andare a vedere e andare a vedere anche i tuoi video. E quindi raccontavi di questa tua attività lavorativa, come si sviluppa e a chi è indirizzata principalmente? Sì, l'attività lavorativa è basata su dei programmi che io faccio personali, cioè nel momento in cui tu mi scrivi io sento le esigenze che tu hai e in base a quello poi metto su un programma. Ciò in linea di base programmi standard, però a me quello che mi preoccupa è che le persone che vengono qua sono consapevoli di quello che acquistano e di quello che vanno a vedere. Sì. Perché già la persona che mi chiama e mi dice che c'è da vedere, ecco, io che c'è da vedere, ecco, già lì dico, io non siamo una città, non siamo che ti porta a vedere una chiesa, un monumento, certo, o il Tempio dei Sami con l'altare, cioè qui è un posto dove ci sono foreste, dove c'è natura, uh-huh, e le cose che si fanno sono di base, non c'è la disco music la sera, vabbè ci può essere, però è un discorso, diciamo, più uno stare nel silenzio, cioè ci vuole una tipologia di persone che piaccia, no? Piaccia comunque la natura, stare molto all'aria aperta, quindi attività outdoor. E tra le mie attività io faccio fondo, perché è, diciamo, la cosa che più mi si avvicina al trekking, che tu sai, lo sci di fondo poi non è altro che un'estensione, poi, no? Lo sci delle proprie gambe, nel senso che lo fondo è come un camminare. E secondo me è la parte più bella, è un bellissimo sport proprio perché ti permette di cogliere l'essenza del luogo, cosa che non potresti fare con magari lo sci alpino, e con il fondo ti soffermi, fai le foto, fai video, e io poi sono una collezionista maniaca di tutto, mi porto sempre dietro un sacchetto sia in estate che in inverno per raccogliere cose, pezzetti di corteccia, di betulla, pezzi di qualsiasi cosa, raccolgo. Sono, che ne so, magari qualcuno ti potrebbe chiedere qualche, ma non ci sono pericoli di animali che ti potrebbero finire addosso, cose del genere, no? Ma no, dunque in estate di animali ci sono, in estate pieno di renne per esempio, mm-hmm, e la cosa sconvolgente è che magari tu ti ritrovi come nei film, su un'altura, no? E magari parli al telefonino che qualcuno ti chiama e a un certo punto senti come un vento caldo e di arrivare 300 renne, a 300 di numero, 300 e non Cina, 300 che ti passano in quel momento, ti trovi nel mezzo di una cosa selvaggia mai vista, no? Mm-hmm. D'estate, e poi ci sono le mamme che allattano i piccoli proprio lì vicino a te, cioè, ovunque pieno di renne, sembra che vedi doppio, cioè ovunque ci sono renne, e d'estate ci sono pure gli orsi, qui ce ne sono tanti di orsi, bello, però c'è un famoso aneddoto che mi dissero appena arrivai in questi luoghi, mi dissero, cioè guarda Lisa, qui ci abbiamo due tipi di orsi, uno che quando lo vedi devi scappare, uno che quando lo vedi invece ti devi assolutamente fermare. Ora chiaramente questa cosa è vera, però io mi è rimasta fin dall'inizio, per cui ogni volta che vado fuori, uh-huh, e c'è qualcuno con me faccio sempre la stessa domanda, dico senti ma ti ricordi quell'orso che era? Mi confondo tra quello che devo scappare e quello che devo star ferma, cioè ti prendi da questi pallini, no? Ma poi in realtà gli orsi sono molto timidi, sì, e ti sentono già e scappano via, uh-huh, e chiaramente io col cane è già un pochino più diverso, perché magari con il cane puoi dare adito all'orso, specialmente se sei piccolo, di attaccare, uh-huh, però non ci sono mai stati problemi, insomma, uh-huh, non, ma non... gli svedesi o comunque le persone che abitano in quelle parti, da quelle parti, hanno in qualche modo qualcosa con loro, cioè sono armate, hanno dei coltelli, qualcosa dietro? No, qui figurati, no? Il crimine non esiste, tu pensa, il crimine non esiste, quel poco crimine che c'è nelle città, che mi dicevano per esempio in questo caso la Norvegia, che è la parte mia più vicina, è dovuta, siccome c'è chiaramente facilmente, insomma, intuibile, e la principale nevrosi degli norvegesi è l'alcol. Vabbè, certo, quindi, sì. Quindi qualche crimine si verifica, e furto proprio tra gli alcolizzati. Magari fine settimana. Se tagliassi fuori i calcolizzati non c'è crimine. Tu pensa che qui la polizia c'è solamente nei periodi di festa, altrimenti si tolgono il cappello e fanno altri lavori. Chi fa il barista, chi fa il caffè, chi fa il panettiere, capito? Vabbè, è una bella soluzione. Sono la divisa e qui lasci tutto aperto. Io le porte, le case non si chiudono mai. State ascoltando un divago. Ai nostri microfoni Luisa Troianis dalla Svezia. ondivago.blogspot.com. Mm-hmm. C'è sempre la chiave e la porta aperta, le luci sono sempre accese, la macchina aperta. Se perdi qualcosa, fino ad ora, io dicevo, non mi ricordo dove, mi capita a volte di trovare dei sacchetti, degli zaini, dei guanti, delle sciarpe, no? Allora la prima cosa che ti viene, sinceramente, sono sincera, di andare a vedere questo zaino, poi se è bello ti immagini, no? Ti viene un pensierino, cioè, ma ti guardi intorno, ma chissà che c'è dentro, poi però non ti viene, perché poi stando qua con anni vedi che lo riappendi al chiodo da dove l'hai trovato e te ne vai contento. Perché è così, cioè qui se qualsiasi cosa trovi lo lasci nel punto più alto di cui l'ha trovato e quando così chi ripassa lo trova sicuramente, no? Se deve fare il giro lo ritrova dove l'ha perso. È un grande segno di civiltà che ti rinfranca e poi quando riappendi quello zaino al chiodo pensi, ma sai come ti senti, come se hai fatto una buona azione. Sì, anche se deve essere la normalità, sì. Però in un paese o in altre città che non si è abituata a questo è una grande lezione. E a livello invece di servizi locali, sanitari e tutto, tu sei riuscito a trovare una cosa? Sì, dunque, i servizi sono buoni, qui dove sono io c'è un centro, e c'è il dentista, la farmacia, c'è un di prima. Possiamo dire che c'è anche un tuo video dove tu vai dal dentista? Sì, c'è anche quello, che si chiama Storia di tutti i giorni, che non è la canzone di Fogli, mi viene in mente, ma racconta un po' il tragitto che io faccio da casa e i vari servizi poi che vado a fare, insomma, in Funesdale, nel paese dove mi trovo. E qui paghi, per esempio, sono stata l'altro giorno per dirti, qui paghi un ticket di 15 euro quando vuoi vedere il medico. E io per esempio sono andata alle 8:30, ho pagato il ticket e dopo 5 minuti avevo già il medico. E io per esempio avevo un problema a un occhio, per dire, e poi la cosa buffa cos'è, che quando ti prescrive la ricetta, non la prendi tu, ma va direttamente al computer della farmacia. Così quando ti presenti con la ricetta che loro hanno, viene stampata un'etichetta. Fa conto, dice 3 pillole al dì, e queste 3 pillole al dì, l'etichetta ti viene attaccata al medicinale. Così tu non devi scrivere con la penna, no? Non so se ti è capitata a casa, ci scrivi una al giorno per mezza giornata. E poi perdi il foglio e quindi non sai più neanche dove. E l'unica pecca che hanno qui è la ficca. La ficca è il momento di pausa. Siccome viene tolto regolarmente dallo stipendio, loro non c'è ficca che tenga. Cioè, se c'è la ficca dalle fai conto, alle 11 a mezzogiorno, passasse anche Gesù Cristo, loro vanno a fare pausa. Quindi se tu sei lì che aspetti, cioè non è che dicono vabbè l'ultima poverina. Io una volta avevo un appuntamento alle 12, non sapevo, tra l'altro loro mi avevano dato questo appuntamento qua, e quindi già aspettavo da una bella mezz'ora. A un certo punto ti vedo passare la caposala, il medico, quelli dell'ufficio, la farmacista e il dentista con il caffè in mano che se ne vanno. Io li guardo, questi dove? Io ero sola. Dico, ma guarda sti cretini, ma dove cavolo vai? Lì per lì, no? Dico, ma come, un appuntamento, questi vanno a fare, vanno a bisbonciare col caffè, scusa. E dopo una mezz'ora ritorna, dice, prego, cioè per dire, era il momento di pausa, non gliene frega nulla. Sì, sono precisi in quello. Tu raccontavi anche che stavi aspettando qualcuno e ti eri messa in coda per qualcosa. Sì, ma lì anche un'altra cosa. Allora, sono andata per fare le analisi del sangue. E c'è fuori un quello per prendere al supermercato, no? Prendi il numerino. E io non c'era nessuno, e c'era questo signore dello sportello lì che scriveva. Io mi guardo intorno e mi fa questo mio amico che mi accompagna, dice, Luisa, prendi il biglietto, prendi il tic. Dico io, no, prendi il tic. Ma scusa, dico, perché la devo prendere? Poi l'italiano, ma perché la devo prendere? Non c'è nessuno. Prendi il biglietto, niente. Allora vado lì davanti, capito, questo non il l'addetto, ma nemmeno alza gli occhi, ma nemmeno mi considera. Alla fine prendo sto biglietto e fa, avanti un altro, prego. sono molto precisi, sì, questa è la regola e questo è, non sgarrano, questa è la cosa. Sì. Però c'è anche il senso civico, quindi penso sarà tutto pulito, ordinato e... Sì, qui addirittura figurati, organizzano anche la raccolta dei rifiuti che durante l'estate magari la gente può buttare dai finestrini, può capitare, quindi tutti i locali che vivono vicino alla strada, vanno con i sacchetti e raccolgono tutto. Molto interessante. Va bene, io ti chiedo ancora un paio di cose, cioè se ritorni in Italia regolarmente. Sì, negli ultimi anni sì, negli ultimi tempi sì, perché comunque specialmente in estate, 2 o 3 mesi ritorno, perché insomma anche sento un po' la, cioè molto bello qua, però è anche bello anche stare a casa, quindi ritorno un po' più spesso degli altri anni, sì. E poi l'ultima domanda è: che cosa, come vedi il tuo futuro fondamentalmente? Ah, mamma mia, non lo so. Come lo vedo? Quali ipotesi, diciamo, fai per il tuo futuro? Ma la migliore delle ipotesi che potrei fare è la vita che faccio adesso, perché è una vita, sai, come tutte le cose c'è anche i suoi contro, perché indubbiamente ci sono anche dei prezzi, tra virgolette, da pagare, nel senso che comunque sei sola e uno dice vabbè, ma chi te lo fa fare? Non è che... Ma, perché fai 2 conti e vedi che in fondo, insomma, ti piace così. E a me piace alzarmi, per esempio ieri ero nella foresta, nella riserva naturale, a dare da mangiare al bue muschiato. Che detto così, guarda, ieri davo da mangiare il bue muschiato, è già veramente una cosa da favola, insomma. Ma se tu lo vedi, sì, perché poi questo posto, perché io ho fatto, adesso faccio il video, no, per, vabbè, poi ho dovuto fare un video e dentro la foresta. E è bello perché questi animali, cioè non tanto per la bellezza, perché poi sono un mix tra la capra, figurati, cioè non è che hanno, diciamo, questa purezza, no, di razza, che però sono sempre parenti del mammut, sono gli ultimi superstiti dell'era glaciale, sono animali di 300.000 anni fa, quindi ti fa pensare questa cosa, capito? Allora, grazie della chiacchierata, ricordiamo anche il tuo sito. Sì, il mio sito è allora, www.redfoxadventure.com, e per informazioni redfoxadventure@hotmail.com. Poi ti troviamo su questo Facebook, che ormai su Facebook, che Luisa Troiani ha anche un bis, cioè non mi bastava il mio, ma anche la bis, e poi su un canale su dove metto tutte le mie cose, così. Semiserie su YouTube digitando Red Fox Adventure. Abbiamo ascoltato per la rubrica Melting Plot la storia di Luisa Troianis in collegamento Skype dalla Lapponia svedese. Che hai visto, Ginger? Come on. No. Andiamo. Oddio. Con questo numero sottolineiamo ancora una figura femminile diversa da quella che la speculazione mediatica e politica ci vuole imporre. Nel corso delle nostre ultime 2 puntate abbiamo lasciato spazio al coraggio di cambiare, perché cavalcando le onde si può sempre cambiare rotta. Ondivago è un programma radiotonico, in redazione Anna Raffaella Farao, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Vi ricordo che è possibile riascoltare le nostre puntate alla pagina ondivago.blogspot.com. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook. Un radioattivo saluto da Max Ponte. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.